reda deggia di sì nero delitto, capace un cavaliere a di scoprire il vero ogni mezzo si cerchi. Io sento in petto ed sposo ed amico il dover che mi parla. Disingannarla voglio, oh, vendicarla.